fai piangere tu, che mi fai premere tu col tuo perfido amor, hai lacerato il mio cuor, e pur sei tu, soltanto tu che avrò. Fai piangere tu, che mi fai premere, triste e lontano da te, non fa altro amore per me, tutto l'amore sei tu. Tentare ancora, non mi cercare, non ti curare di me. Lascia mio spezzi al fine questa malia, ch'io fugga via. Tutto l'amore sei tu.